C'è un po' di cielo in ogni fiore, c'è un po' di mare, un po' di sole, c'è un po' di cielo in ogni cuore, c'è un po' d'amore per chi ne vuol. L'arcobaleno si frantumò, giardino si riversò, e perciò in ogni fiore restò il colore d'un po' di cielo. C'è un po' di cielo, basta cielo senza nuvole, in ogni fiore, basta un fiore, un po' di musica, c'è un po' d'amore, e ogni donna per ogni cuore. C'è un po' di cielo, queste cose per noi uomini, c'è un po' di mare, sono invece solo favole, per far sognare, che non ci vuole si sognare. Il sogno sfuma, è la solita canzone, si fa realtà, oggi, domani, sempre, e chi ti ama, la canzone dell'amore, che rima con fior con fior, e di noi, però, però, sorriso, però, però, se giunge quel momento, l'uomo getta via la maschera e scopre l'amore. Il sogno sfuma, si fa realtà, domani sempre, e chi ti ama e tra i petali del fiore sorriderà.